ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Obiettivo salute di Nicoletta Carbone. Bonjour mesdames et messieurs. Ieri abbiamo appreso il modo giusto per far bollire l'acqua e oggi vedremo qual è il sistema migliore per rompere un uovo. Voilà, un uovo. Un uovo non è di pietra e non è neppure di legno. È una cosa viva. E quindi rompendolo non dobbiamo straziarlo. Dobbiamo averne pietà e giustiziarlo rapidamente con un colpo di ghigliottina. Crack! Con una sola mano. Fate bene attenzione al polso. Voilà. Uno, due, tre. Crack! Visto? Occhio al polso. Gran risveglio oggi con un grande classico, tutta questione di polso, l'avete riconosciuta, no? E lei, Sabrina, un film meraviglioso. Io da allora, da quando l'ho visto, poi ho cercato di allenarmi a rompere le uova, come insegna Sabrina. A volte gli inizi sono stati difficili, ma adesso ce la faccio. Chissà se ce la fa anche il nostro amico di questa mattina, il dottor Giorgio Donegani, che di uova se ne intende, essendo esperto di alimentazione e tecnologo alimentare. Dottor Donegani, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Come se la cava? A rompere le uova, ma sì, diciamo ci sono cose che mi riescono meglio, soprattutto mi hanno insegnato a buttarle una contro l'altra e a volte funziona, a volte si rompono tutte e due insieme ed è un po' un disastro, però va bene. Ma se poi questo dei pezzettini di guscio si tuffano nell'uovo che abbiamo raccolto in una ciotola, che si fa? Beh no, si tolgono, purché non lo mangiamo crudo, tolgono, si cuoce tutto, ci e via, dai. Allora, sì, dottor Donegani, la porto subito in negozio. Perché se vanno in frigorifero, nei supermercati, nei negozi, le troviamo in genere sui banconi non refrigerati? Ma sì, questa è una cosa un po' assurda in effetti, perché risale ancora a una legge che in pratica dovrebbe essere anche superata. La legge vieta di vendere come fresche le uova in qualche modo sottoposte a un sistema di conservazione e considera la refrigerazione appunto un modo per conservarle, per cui dice se le conservi refrigerate non sono più fresche. In realtà evidentemente è una cosa ormai obsoleta e in frigorifero ci vanno e come le uova quando torniamo a casa, lasciandole nel loro contenitore. Nel loro contenitore, poi lei, come ci ha insegnato in diverse occasioni, le mettiamo non nel portellone del frigorifero? Se noi togliamo le uova dal loro contenitore e le mettiamo nei portauovo del frigorifero, esponiamo il guscio all'ambiente esterno e poi aprendo continuamente e chiudendo, c'è anche la possibilità che delle particelle si stacchino dal guscio e vadano dentro nel frigorifero, magari a depositarsi su altri alimenti. Per cui non è una bella cosa. Negli scomparti in mezzo, cioè nei ripiani di mezzo del frigorifero, ecco, è lì il loro posto ideale, sempre nel loro contenitore. Sempre nel loro contenitore, nel loro vestitino. Svestiamo le uova. Cosa significa il codice che c'è sul guscio, dottor Donegani? Ma significa tante cose, però in realtà quella che a noi importa è solo una, perché è fatto da cifre e lettere. La prima è quella che è più significativa per noi, perché indica il sistema di allevamento. Zero è l'uovo biologico, 1 è l'uovo di galline allevate all'aperto, 2 a terra e 3 invece di galline allevate in gabbia. Il resto sono codici di tracciabilità e poi sotto a volte, sempre stampigliato sul guscio ma non è ancora obbligatorio, c'è la data di scadenza. Ma ecco, quella, che cosa succede se consumo un uovo dopo la data di scadenza? Dunque, lo apro, vedo, perché posso valutare un po' la freschezza. Assolutamente sì, è un peccato buttare via anche le uova. È una data, 28 giorni, tra l'altro pensata per una conservazione fuori dal frigo. In frigo durano decisamente di più, senza nessun problema. Ma senta, dottor Donegani, come si fa a riconoscere la freschezza delle uova? Ci sono tanti sistemi, sì. In effetti alcuni sono ma molto... Ma io vorrei il suo. Ma, ecco, ma guarda, la prima che così cosa non è guardarle, sbaglio, le guardo. Ma la prima cosa è guardarle. Mm. Se sono molto lucide sul guscio non è un buon segno, perché... Ecco. Quando fa l'uovo la gallina gli mette sopra una ceretta, no? Ecco. Brava, cioè è proprio, si chiama mucina, che serve a proteggerle, le rende un po' vellutate. Ecco, quella se c'è è un ottimo segno, se sono molto lucide no. Poi scuotiamole un pochettino, man mano che il tempo passa l'umidità che c'è dentro nell'uovo esce ed entra l'aria, per cui si forma quella che si chiama la camera d'aria quando usciamo le uova sode, la vediamo bene, no? Ecco, se è sufficientemente sviluppata, quindi se l'uovo è vecchio, l'interno si muove. Puoi anche provare a farle girare su un piano, sul tavolo, no? Le fai girare. Questo mi sembra. Rimangono lì, se rimangono lì vicine, non fatele cadere. Se cominciano a allargarsi, allora è meglio di no. Dottor Donegani, lei ci suggerisce anche delle cose un po' a rischio, perché un attimo, io già so che se le faccio girare sul tavolo è un attimo che le devo raccogliere. Senta un po', ma il colore del guscio ha a che vedere con la qualità? Il colore del tuorlo mi dà degli indizi? Né l'uno né l'altro hanno a che vedere con la qualità delle uova. Il colore del guscio dipende soprattutto dalla razza della gallina. Ci sono galline che fanno uova sempre bianche e altre invece più creative. Più creative mi piace, anche coi fiori. sarebbe bello. No, poi per quello che riguarda il tuorlo, vanno molto di moda adesso le uova molto colorate, soprattutto per fare la pasta all'uovo, che dipende dall'alimentazione delle galline, però quello che dà il colore è la presenza di carotenoidi, che sono coloranti appunto arancioni, che possono essere di origine tranquillamente naturale, se li mettono per esempio una volta si usavano molto i gamberetti, quelli rossi, no? Il guscio, così metterci dentro, poi a volte danno un po' di sapore di pesce all'uovo, per cui hanno cambiato, c'è questo colorante, l'astaxantina, che può essere usato, cose assolutamente innocue, ma che non indicano una qualità superiore. Dottor Donegani, le proteine delle uova sono considerate nobili, io ho detto, sono ricche e costano poco. Esatto. Ecco, quindi sono sicuramente una scelta che possiamo fare per sostituire, ad esempio, rendere più varia la nostra dieta e consumarla al posto della carne o del pesce. Certamente. Ma quante uova questo? Perché sulle uova se ne sono dette un po' di tutti i colori, che fanno male al fegato, che alzano il colesterolo, che sono piene di antibiotici. Le ultime linee guida per l'alimentazione della popolazione italiana, che sono uscite da pochissimo, sono molto chiare. Non ci sono motivi per limitare il consumo delle uova se non si hanno particolari stati che lo consigliano, e da 2 a 4 uova alla settimana sono sicuramente consigliate per tutti. Dottor Donegani, chissà se qualcuno delle nostre amiche e dei nostri amici all'ascolto si sta preparando l'ovetto, un ovetto alla coq per iniziare bene la giornata, per mettere un po' di proteine alla prima colazione, che è così importante, ne abbiamo parlato tante volte. Dottor Donegani, lo dico anche a lei, adesso alla Bufala in Tavola abbiamo inaugurato una nuova rubrica proprio a sottolineare la stretta relazione che c'è tra cibo e salute. L'abbiamo chiamata Adesso Cosa Mangio, perché sono tante le domande che ci sono intorno al cibo, alla quantità, alla qualità, quanto posso mangiare, cosa devo aggiungere, cosa devo togliere, cosa devo limitare. Allora si prepari, perché anche lei, essendo uno dei nostri esperti, sarà coinvolto e sarà chiamato a rispondere ai messaggi vocali delle nostre amiche e dei nostri amici al 335 8304 306. Se volete, messaggio vocale, il numero lo trovate anche sulla pagina di Obiettivo Salute, la pagina Facebook del programma. Se avete un dubbio, avete bisogno di una richiesta, volete chiedere qualcosa anche al dottor Donegani riguardo alle uova, mandate un messaggio vocale e avrete soddisfazione. Dottor Donegani, grazie, spero di vederla e di sentirla presto. Buone uova anche a lei.